And then you're right. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Da una costola imbruttita di OGM arriva le O Razioni della Sera. Commentiamo assieme a voi i fatti della giornata appena trascorsa. Quali fatti? La cronaca, ma non solo. Potremmo commentare cose successe, piccoli spaccati di vita vissuta da tutti quelli che si troveranno da queste parti. Quindi soprattutto da voi. Sì, perché l'idea è quella che voi siate parte integrante di questo format. Condividete i vostri audio, scriveteci in tempo reale sul nostro gruppo Telegram Dirette Runtime o dateci la disponibilità a partecipare in diretta e verrete coinvolti. Le orazioni della sera vi dà appuntamento martedì, mercoledì e giovedì dalle 20 alle 20:30 per mandarvi di traverso la cena. This is Runtime Radio. Runtime Radio presenta. Ehi, presente, presente, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? No, no. Signora! E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma come? Ma che cazzo? Ma no? Ma che? Ah? Calla, guardavo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma Soch, ma che è stata stronzata? Sochi che? OGM Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. Noi basta con tutto sto casino. La gente qua deve dormire. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Ladies and gentlemen, carissimi amici, madame e messie, benvenuti a OGM Soch Media Edition, la trasmissione con la sigla abbastanza lunga necessariamente, perché se fosse per i contenuti durerebbe 5 minuti. Walter Sbano! OGM? No. Marco Gualdi! Bello. Ah, tu sei la scoreggia finale, ok. Non è che recita. Carmine Puccio Console! Buonasera, grazie. Grazie a chi? Sono tornato. Grazie. Grazie a Graziella. Al cazzo. Tra poco ci raggiungerà anche Francesco e noi siamo qui in una puntata, devo dire, una puntata speciale a modo suo, perché è la puntata dove meno di tutte le altre puntate abbiamo qualcosa di pronto, insomma. O tu c'hai qualcosa di pronto, Walter? Io la cena che c'è, però pronta, anche la cena. Già mangiata. L'hai mangiata, quindi l'hai pronta e l'hai mangiata. E tu Gualdi c'hai qualcosa? Oggi crudité. Crudité, crudi me. Io di pronto c'ho, no, forse un malanno. Però ti sento basso, Marco. Mi senti? Così ti sento meglio. Sì, aspetta, assumo la posizione. Un giorno in pretura, forza. Okay, adesso è sempre così, ragazzi. Questa cosa proprio ormai è come dire una consuetudine. Quando che... abbiamo un buco che non sappiamo cosa dire. Cosa dire? Esatto. Però questo oggi è l'unico abbiamo... programma in cui ogni postazione ha due microfoni. Due microfoni, esatto. Così, perché uno se lo magniamo di solito. Pure Puccio, Puccio c'ha il microfono, quello delle cuffie. E un altro microfono. E In realtà ce ne ho tre, cioè quello delle cuffie, uno della scrivania ambientale e quello della webcam. Quindi vedi, vedi. Che è la scrivania ambientale? Cioè, tu c'hai la scrivania ambientale? C'è il microfono ambientale sulla scrivania. Insomma. Dite qualcosa che devo fare una cosa. No, però c'è anche il microfono del Deep State, che è quello che usa in particolar modo Puccio. Noi sappiamo, insomma, è il nostro, è la nostra falange armata verso qua, intanto il mondo di qua. Mi si muore accanto. Chi è morto? No, il Gualdi. È entrato qualcuno. Mi sa che è arrivato Francesco, che sta mangiando nel mentre, immagino. No, non avremmo. Sì, è entrato, ma così. Ma forse sta pigiando sui pulsanti perché sta soffocando. Perché lui ce ne aveva due dei microfoni e se l'è bagnati tutti e due. Eppure è così longilino. Blob con la mano, con quella maniera che stavi a fare, devo dire. Se lo avessero visto voi, i telespettatori avrebbero pensato. Ma fortunatamente i telespettatori non possono vederci. Vabbè, ho capito. Ognuno a quest'ora decide, dopo cena fa quello che vuole. Vedi, sta a mangiare. La sta a fare lui la fellazio. No. Fela Fellazio, famoso Forza Roma, qua Lazio. Così. Vabbè, questo è un mogacci per davvero, perché sennò è una volta buona. Fela Fellazio, ricordiamocelo. Bene, dice è merda di laziale. Vabbè, comunque dai, prima fascisti, pure quelli che dicono che non sono fascisti, sono fascisti. È vero, infatti, ma e poi lo fanno anche con che ti posso dire, con una certa tracotanza. Oggi avrei da fare una citazione proprio di uno ne parliamo, lo vado a ripescare. Un tizio che in questi giorni si è reso molto famoso su Twitter perché ha cominciato a fare post veramente inqualificabili, anche body shaming su qualunque cosa secondo lui avesse a che fare vagamente con l'essere di sinistra, no? E la cosa è che questo tizio che però nella biografia, oltre aver messo di essere di la sua locazione Loco Rotondo, se non ricordo male, però è però è fieramente tifoso della Lazio. Allora mi è venuto in mente questo gancio. Ma è laziale, cioè nel senso è uno trapiantato? Non lo so, figurati. O è uno che in quanto persona di destra? No, non credo. Semplicemente. No, chiedilo, scusa, ti devi documentare. Documentati. Io l'ho bloccato perché non no, sblocca. Adesso lo sblocchi. Ti ho bloccato solo per chiederti una cosa. Ma perché ti fipe la Lazio? Sei di Roma? Esatto, sei lo titiano, qual è il motivo? Qual è risposta? Tu blocchi. Esatto. Dopo che ti ha risposto, lui ti dice: fatti i cazzi tu a brutto stronzo. Esatto. Quello ti risponderà. No, minimo, sì. Babbuino, cose così. Che ha fatto solo ha fatto body shaming partendo da Elish Lane. Perché non è esattamente. Vabbè, insomma, ma sono classico, fa parte del repertorio. Ma non è che assumi neanche a Babbuino. Cioè. Chi? Non so, non c'ho preso. Sbano. No, Lashline. No, vabbè, dai, pure Lashline. Vabbè, dai, dopo. Dopo. Devo dire altri insulti, ma babbuino. No. Dopo, sì, pure io mi sono preso questioni, però in modo molto originale, sempre sul digitale, ma dove ne discutiamo? Allora, diciamo che la prima notizia importante che dobbiamo dare questa sera è relativa al fatto che. Niente, Puccio c'è ricascato, è un po' come la droga, come l'alcol. Cioè, tu a Puccio gli hanno dato uno sponsor. Oops, I did it again. Che l'ha cercato di aiutarlo in qualche maniera. Infatti Puccio a un certo punto si è alzato in piedi mentre che era a tavola e ha detto: io sono Puccio e sono 24 minuti che non insulto gente su Quora. E quindi praticamente che non insulto anziani. Poi spieghiamo che per sponsor non è uno che gli dà i soldi, è uno che lo dovrebbe assistere nel cammino di lo sponsor esatto, della riabilitazione. Insomma, quindi se poi qualcuno vuole farmi da sponsor dandomi anche dei soldi. Mizuno, io gli va Mizuno. Scusate, San Giovanni Rotondo, il tizio di prima, non Loco Rotondo. Vabbè, però insomma, sempre. No, ma allora si spiega perché a San Giovanni Rotondo ho visto un sacco di statuine di Padre Pio con la sciarpa della Lazio. Infatti, c'era una che la volevo regalare a Pizzi. Ah, ma lo sai che mi sa che ho capito? Sì. C'è anche un motivo, mi sa, ma adesso me lo vado a Padre Pio ti fa la Lazio. No, che Padre Pio non ti fa la Lazio. Fatto la miracolo. Semmai, guarda, Padre Pio se ti fava, ti fava del Napoli. Questa magari qua, faccio della foto, magari Pizzi lo conosce. No, perché lo dovrei conoscere? Eravate allo stadio insieme l'altro giorno, che ne so. No, ero allo stadio e tra l'altro lo stadio è stata una cosa carina perché a un certo punto si avvicina uno e mi fa: ma tu sei Simone Pizzi? E io mi sono sentito pure figo perché dico: oh, cazzo, la gente mi ferma. Ah, sei un ascoltatore di Runtime Radio. Ci ho prestato 10 anni fa 10 euro. Quindi questi li dai. Con l'interesse. No, meglio ancora, me li dai 10 sacchi perché è proprio una cosa che si perde nel tempo. È un amico mio della prima media. Che poi stavamo sempre insieme. Cioè lui dice: ma tu ti ricordi di me? E io gli dico: guarda, a me mi dispiace che tu mi hai riconosciuto, io non t'ho riconosciuto. Ma curiosità, si chiamava Fabris sto tizio? No, però ma vabbè, io penso che Fabris era un po' tutti e due da quel punto di vista, insomma. Però insomma, Enrico Ritaldi, io saluto Enrico Ritaldi, grazie di avermi ricordato momenti veramente belli della... Si è detto riconosciuta, si è detto, ti ricordi giocavamo al Commodore 64 insieme? No. È come la sigla di OGM? No. No, esatto, sì. E però comunque questa cosa mi ha fatto molto piacere. E poi, insomma, la mia esperienza. Aspetta, però, Simone, gliel'hai fatta la domanda? Cioè? La domanda. La domanda. Allora arrivo da te, tu non lo riconosci, gli chiedi? Chi sei Fio? A chi si Fio? Vabbè, ma no. No, non so, io non sono entrato ancora purtroppo nella cultura, però devo dire che l'altro aspetto positivo del mio essere andato allo stadio giovedì è il fatto che dentro allo stadio c'è il ristorante che se magna, devo dire, se magna abbastanza bene, abbastanza bene. Questa è una cosa molto importante. Ho mangiato la pasta, il sushi, c'era il sushi. Ma sì. Poi c'era uno sformato di non so che cosa, il pollo, le verdure. Vabbè, tipicamente insomma, roba arrivata da un catering, dai. No, immagino, è catering, okay, è non catering, penso che cucinino, sì, lì. Non credo ci sia proprio il ristorante dentro. E tra il primo e il secondo tempo tu rientri col tuo braccialetto, perché insomma, se no non te fanno entrare, e c'è il dolce. Dopo una cheesecake. Non ma male. In un quarto d'ora riesci a spostarti dalla gradinata tribuna? No, perché dove sto io è proprio vicino all'accoglienza, praticamente. Ah, proprio, cioè, è solo quell'area lì che può accedere al ristorante. E la cosa bella è che lo stadio era completamente vuoto, ma erano tutti quelli che c'erano. Erano tutti dentro al ristorante. e insomma, faceva un callo bestia, guarda, fuori faceva freddo. Comunque è stata una bella serata. Questa cosa di Enrico Ritaldi. Però torniamo a Puccio, che insomma siamo curiosi. Perché noi avevamo detto l'altra volta che lui è stato, diciamo, sospeso temporaneamente, anche con le scuse, diciamo, dei moderatori, dicendo guarda, ci dispiace, ma ti dobbiamo sospendere, insomma, questo non vorremmo, ma le regole non vorremmo. Poi dopo ti hanno riabilitato. Esatto. Io non conoscevo poi questo lato litigioso di te, insomma, questa... No, ma figurati. Ma poi perché proprio su Quora, capito? Cioè, dei tanti social dove uno può andare a litigare, insomma. No, perché su Quora è piena di pensionati che non fanno un cazzo la mattina, la sera, e scrivono stronzate. Ho capito. Detta così pare Facebook, però. infatti no, peggio. Cioè, allora, Facebook puoi trovare delle fasce che si aggirano tra tipo la mia età, 40-45 anni, e i 55. Diciamo, il nucleo duro di Facebook ormai c'ha più o meno questa fascia di età. Quora invece sembra ospitare, diciamo, quelli che stanno ai tempi supplementari con la morte, tipo i calci di rigore, quindi gente che sta sopra. Ma perché? Dai, scusa. Però è strano, non è un, non è un social media così cioè, mainstream, ma però sì, dai. Sì, ma è, stranamente sembra attirare moltissimi anziani, ma di quelli molesti, tipo, e io poi sono riuscito a beccarne due, quello veneto dell'altra volta. Questo invece è lombardo. Ah, perché quindi quello veneto era anziano? Io non ho capito sta aspetto. Sì, era un over 70. Chissà se Geronto Gamer sta su Quora, Marco. Sicuramente. Potremmo. No, secondo me Geronto Gamer si aprirà una posizione su com'è Mastodon, perché anche se non ho capito. Mastodon. Cioè, pure sì. Masturbon. Masturbon, ci scrivo io. Facciamo, raga, un'istanza la chiamiamo Masturbon. Oppure facciamolo noi il social network, lo chiamiamo Masturbon. C'è un'istanza di Mastodon. Ragazzi, c'è, c'è il business. Abbiamo trovato. Ma ci hanno inculato perché l'abbiamo detto per radio. Oramai è finito. Vabbè, ma secondo me, se lo dici, Puccio tira sull'istanza stasera. Vabbè, vai, Puccio. Mentre che fai la trasmissione. Vabbè, lavorando il container. Quindi è arrivato sto lombardo. Chiudiamo sta storia, perché sennò apriamo 50 digressioni. Dal fatto che una persona diceva: perché Milano è diventata improvvisamente invivibile? Tra, diciamo, improvvisamente proprio per i negri, cioè, immagino, giusto? A parte, cioè, qualche, diciamo, mente illuminata che spiegava: no, guardate, che è un problema che parte da lontano, la gentrificazione. Dalla Puglia parte il problema di Milano. Sì, ma vi ricordo la famosa frase: si ringrazia la regione Puglia per averci fornito i milanesi, che sta, credo, nella stazione Duomo di Milano e viene rinnovata di anno in anno. Stavo dicendo, a parte gente che cercava di spiegare cosa è diventata Milano e perché è diventata così, quindi gli appartamenti da 1200 euro per 50 metri quadri, City Life, va bene. City Life, uno ha messo le foto di un extracomunitario che dormiva su una panchina. Quello è il problema di Milano. Perché non paga? Cioè, quello strozzo lì sta lì gratis. Ma paghi la panchina? No, capito. Allora, questa gran brava persona, Scusate, intanto stavo cercando di leggere il messaggio di sospensione di Quora, perché a quanto pare me l'hanno già revocata. Ah, beh. Ah, quindi sei già rientrato. Vabbè, però questo... insomma, che dice Sciurbrambati? Sentiamo. No, si chiama Cazzani. Ah, beh, l'altro cognome indicativo. Sì, ovviamente. Stavo dicendo, no, io una soluzione istantanea l'avrei. E gli ho scritto, vabbè, tu la soluzione l'avresti, però come mai non c'ho il coraggio di scriverla? Mi ha risposto una roba tipo che le espressioni biologiche non sono degne di risposta. Io gli ho messo la gif di Fabio De Luigi che faceva Lucarelli. Paura, sì, paura, eh? Sì. E anche oggi racconta un meme, ce lo siamo. Esatto. E lui ha continuato dicendo espressione biologica, e poi ha cercato di scrivere una roba che potrebbe essere torrone, ma con la E al posto della O iniziale. Ok, terrone, lo possiamo dire. Ma non l'ha scritto, perché lui scrive T, trattino, trattino, trattino, trattino, E, e poi mette tipo delle esortazioni in tedesco. Ma no? Perché è astuto, vedi, astuto lui. Sì, sì, no, io è un vecchio, ho capito astuto. Esattamente. Io ho capito e ho utilizzato la tattica Beef Tanner. Ho cominciato a chiamarlo Fifone. Minimo, perché veramente una persona di una pavidità, cioè, veramente tu estrema. Dovevo scrivere F trattino trattino trattino e lui non pensava, tu hai scritto esatto, figa, e allora l'ha abbandonato. Ho scritto a un certo punto, ah, comunque credo di aver capito, se sostituiamo i trattini con la lettera potrebbe venire fuori torrone, quindi è un problema di nostalgia di dolciumi che l'età avanzata non ti permette più di gustare, probabilmente perché se provi a morderne uno ti salta un premolare. Comunque mamma mia, che malvagità proprio. Ma no, poi siccome lui ha scritto una roba tipo T trattino trattino trattino Vernichten, cioè lui ripete questa frase in continuazione, vuol dire distruggete i terroni, che è un nel partito nazista, nella propaganda nazista, invece che terrone c'era Juden. Ah, ok, tipo, certo, chiaro, okay. Chiaro. Comunque, secondo me vuoi distruggere i torroni perché non puoi più mangiarli senza un picco glicemico, ma soprattutto perché secondo me, a differenza di molte parti del tuo corpo, sono duri. Questa cosa, la moderazione di Quora non è piaciuta, e io mi chiedo perché. Perché voglio dire, infatti, non è che hai detto niente, lui ha detto, perché gli ho detto sei un vecchio impotente. Beh, probabilmente lui stesso ti ha segnalato. Voglio sì, immaginare che sia questo il motivo. Però poi dopo loro hanno revisionato la cosa e hanno detto, ma no, dai, riaccogliamolo ancora una volta tra di noi. No, perché a quanto pare posso postare, perché prima per prova ho risposto a una domanda, me l'ha fatta pubblicare. Quindi. La domanda era. Oh. Tocca risolvere il problema di sto microfono. Una settimana. Tocca il microfono. Tocca devo il microfono. Qual era la domanda a cui hai risposto? Che fa rima Orione? Cioè, esatto. E ti hanno ribannato. Vabbè, dai, comunque è una bella storia. Ci è piaciuta. E comunque sei stato riaccolto. L'importante è questo: che noi eravamo più che altro preoccupati. Ci siamo. Non lo so, mi ha preso brutto. Prima di andare via, cioè in realtà rimango tutta la sera, volevo segnalarvi un altro fatto increscioso. Vi ricordate l'ultima volta che abbiamo parlato di TikTok e della famiglia con sì. i fidanzati 17 anni che avevano litigato? Ok, è successa una cosa meravigliosa. Checco con 3K ha accoltellato il padre dell'ex fidanzato dell'attuale compagna. Non ci ho capito un cazzo. Allora, Checco con 3K ha accoltellato il padre. Checco con 3K era il protagonista di questi TikTok che ha messo incinta una ragazza ed è scappato con un'altra, più o meno. In tutto questo è venuto fuori che, siccome lui non postava da un po' di tempo, è emersa questa notizia corroborata da articoli di giornale, che è sparito dai social perché ha accoltellato il padre dell'ex fidanzato dell'attuale fidanzata, che ha 17 anni. Il padre? No, purtroppo la ragazza. Ma questo è Checco de Maddà, ma questo è quello di prima, cioè già l'avevi raccontato. Sì, ok. E quindi? No, quindi sto aspettando il seguito, perché la cosa, cioè adesso c'è anche il sangue, è diventata anche appassionante. Ah, quindi ci lasci con un cliffhanger, non c'è altro. Guarda, non ci sono ancora altre notizie, ma spero che altro che mare fuori. Salutiamo Checco de Maddà, allora, che non c'entra niente, però mi fa ridere già il fatto che sia questa assonanza, Checco con non so quante K. Sì. KKO, bello. Il KKO clan famoso, vabbè. Vabbè, insomma, che è una bella personcina. Sì. Vabbè, ma invece, per esempio, Marco, tu mi dicevi della varia umanità che hai incontrato arrivando in studio. Infatti, mi piace sempre prendere queste strade secondarie, perché si incontra tanta gente strana, del tipo. Quindi sei per parlare di un altro argomento? Un altro argomento, sì. Altro argomento! Dai, prego. Ok. Questo è un altro argomento. Racconto dei miei 5 minuti a piedi. 5 minuti a piedi ho incontrato una signora di non so dove, una settantenne di quelle con i capelli tinti che... Celesti? No, non erano neri, era buio, quindi okay, non so. No, ci sono una signora di una sessantina d'anni che va in giro a Monterotondo con i capelli celesti. Anche viola, forse è la stessa. Ma è Rosalba. So perfettamente chi è, una coworker. Vabbè. Ah sì? Se è per quella che dico io, penso di sì. Cambia spesso colore. Ah, che ne so, io a volte viola, a volte blu, a volte... Io ho visto con i capelli celesti. Vabbè, comunque, ho incontrato questa signora con i capelli tinti. Parlava da sola. Stava parlando con un cellulare, ad un cellulare, quindi con un cellulare presumibilmente... Ma la camionetta dei carabinieri? No, purtroppo no. Presumibilmente con dei bambini o delle bambine, perché si sentivano i versi dei bambini che... Sì, cioè quelli bambini di 5-6 anni che fanno i cazzi loro mentre cerchi di parlargli. E parlava in una lingua a me ignota, ai più ignota. Tipo gridava però. Perché mi è venuto a mettere pizzi che fa. Ma perché questi gridano al cellulare e lasciano a viva voce? E io me lo domando sempre. Accosta la bocca, magari senti, capisci all'orecchio anche, capisci che cazzo le stanno a dire, che non stanno a dire no, niente. No, troppo, no. Troppo vecchia scuola. Troppo vecchia. E più avanti c'era un tizio invece che stava uscendo dalla macchina, e mentre usciva dalla macchina stava probabilmente facendo un vocale, non lo so, e gridato eroina. È uscito fuori praticamente con i pantaloncini da basket. Immaginate così, mentre imprecava eroina, porco re qua, io sono sceso i pantaloni, quindi stavo a culo le fuori, se li tirai su, ma visto che ci stavo io, ma io ho detto no, no, comunque sì, no, poi ho detto che l'avevo presa da poco, però ci hanno creduto, è così. Quindi la domanda è, cioè, presa da poco l'eroina? Eroina, sicuro. Beh, non lo so, sembra abbastanza. Chi è che non ci ha creduto? La domanda, poi io però non mi sono fermato a chiedere. Forse avrei dovuto. Poi io comunque, quando vi dico che qui se c'è, è venuto lui, David Lynch, insomma, alla fine è la verità. Cioè, perché io continuo a dire che i matti ci stanno dappertutto, ma la percentuale pro capite a Monterotondo, secondo me, è superiore alla media nazionale. Ma perché secondo me sono concentrati in uno spazio tutto sommato ristretto, quindi si notano di più. Vabbè, dai, allora sai che ti dico? Andiamo. Twitter. Sai che è bello perché il collego mi sembra eccezionalmente simile a quella di prima. No, ma poi il bello è che collego sto jeans, cioè sto, che è proprio tipo anni 80, capito? Cioè, fa proprio anni 80. Ma una volta non ero cippe. Hai ragione, scusa, aspetta. Ah, metti la cuffia. Cippe. Confondere con ceppe. Esatto. Prego. No, vabbè, esimio. In realtà non ci hai avuto tempo. Allora, no, in realtà qual è il problema? Che questo fine settimana, io di solito raccolgo nel fine settimana le cose relativamente fresche da portarvi, solo che questo fine settimana tutto si è catalizzato su un fatto bruttissimo, perché fino all'altro giorno tutti si stavano a scandalizzare, ovviamente la stampa, tutti i media di governo, col gesto antipatico di Blanco che aveva preso a calci le fioriere a Sanremo, come fosse adesso la magistratura, quale altro atto sovversivo, tant'è che addirittura l'hanno indagato. Sì. Il problema è che nel frattempo, sabato pomeriggio, è successa una cosa bruttissima, che un gruppo di Azione Studentesca a Firenze ha menato dei ragazzi in un liceo. Che è una cosa, ma in termini va menato male poi, cioè. In termini, anche perché come al solito i soliti atteggiamenti loro 5 contro 1, no? La media è questa. Il problema è che tutti quelli che per la stronzata del Blanco, d'abitudine per altre cose anche secondo me, si sono indignati, Blanco di qua, Blanco di là, non hanno proferito una parola su questo gesto di violenza politica. Il governo non ha fiatato nemmeno una parola, quindi giustamente l'indignazione di Twitter si è tutta sfogata verso questo fatto, quindi è stato tutto un riverbero di oh, ma come, state a romper cazzo De Blanco, qua ci stanno i fasci d'Azione Studentesca, quindi un sottoprodotto ufficiale di Fratelli d'Italia che menano dei ragazzi di un liceo a Firenze e non aprite bocca, e il governo tace, e quindi è stato tutto così. Beh, no, il governo in realtà l'ha fatta una dichiarazione, oh, meno male, era ora anche. Beh, quasi, vabbè, ragazzate. Basta che non rovinino i fiori. So giovane. Poi, non vi voglio stare tediato sul fatto che nel frattempo pare che Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano, stesse cercando di intervistare gli amici d'infanzia di Fedez per cercare di corroborare una tesi secondo cui Fedez sarebbe gay e non lo dice. Allora, io questa cosa l'ho sempre pensato. Ma a me non me ne può fare. Cioè, ma pure forse. Ma ha messo in un concesso sul cazzi sua. Cioè, nel senso. Cioè, addirittura dove ci mette su una trasmissione. Ma io non lo so. Cioè, con la Ferragni è sposato regolarmente. Sì, figli li ha avuti anche. Tra l'altro, è una coppia molto più tradizionale di quelle che vantano gente come Pillon, gente come Adinolfi che lottano per la famiglia tradizionale. Sono quelli Adinolfi che ce l'hanno. Lascio perdere, c'ha 4 divorzi alle spalle. Adinolfi si è sposato a Las Vegas, l'ultimo matrimonio. Quindi il fatto che parli di famiglia tradizionale è inquietante. Poi quello che invece è scemo new, proprio il mostro comunista che è, secondo nella loro narrazione, Fedez, guarda caso è sposato in chiesa con... E è da ride, no? No, cioè, lo so, sì, ma per carità. Vabbè. Nel senso che pure Casini c'era sto problema, te lo ricordi? Ho capito, ma Casini d'altra parte... Ma comunque il mostro comunista quando non c'è, tu devi creare. Esatto. Casini però dovete capire che all'epoca con Azzurra Carta al Girone ci ha ricreato una carriera, cioè si è autofinanziato... Come si chiama il partito che aveva creato all'inizio del sodalizio con Berlusconi? No, non mi ricordo. Aspetta, grande centro. Perché il primo polo la prima casa delle libertà, no? Vi ricordate che era formata da Forza Italia di Berlusconi, Alleanza Nazionale di Casini, la Lega e UDC. UDC di Casini, esatto. UDC di Casini. L'Unione Cristiano Democratico. Comunque Casini UDC ha attraversato veramente tutto l'arco parlamentare, cioè gli manca il Partito Comunista navigato proprio. Sì, Casini è partito dalla Democrazia Cristiana destra. Casini non è mai andato verso sinistra. Casini l'hanno eletto a Bologna dal PD, se l'ha candidato il PD l'anno scorso. Ma non era il problema del PD, però. Uno dei tanti. Cioè, nel senso, perché veramente Casini era uno da prendere a schiaffi e basta. Tra l'altro, no, comunque l'Alleanza Nazionale era Fini. Fini Alleanza Nazionale, sì, perché ho detto. Grande Fini, grande Fini. Che fine ha fatto? Si è messo contro Berlusconi quando Berlusconi ancora c'aveva un po' di cassetti di ricatti, sì. Ma secondo me Fini, che io ho incontrato diverse volte, due volte a dire il vero, e che è comunque una persona, al di là delle idee politiche, no? Comunque il Parlamento. Il Parlamento. Sì, sì, vabbè. Tra l'altro, vabbè, ci so. Mi può cacciare? Che fai, mi cacci? No, quello è più torinese. No. Però lui c'ha accento bolognese. Modenese, credo. Come sì, tortellini, insomma, Fini, Modena. Vabbè, per me l'Emilia Romagna è tutto un accento. Bravo. Come la Campania è tutto un accento. Il Lazio è tutto un accento. Pure il Lazio è tutto un accento. Cioè, quello che l'ho detto ed io. È vero. E comunque, alla fine... Fini è sempre stata una persona molto gentile, ma perché era uno degli educato, ultimi politici vecchi a scuola che aveva una cognizione della politica. Però ricordiamoci sempre che Fini era quello che da Pischello diceva che lui non credeva alla democrazia parlamentare, insomma, quando stava in magari, però si è un pochino si è redento. Se tu ci pensi, nell'ultima fase della carriera politica si era quasi tranquillo, cioè non era diciamo che secondo me Berlusconi l'ha fatto diventare quasi di sinistra, cioè, nel senso, alla fine sì, però vabbè, ma quello è l'effetto Berlusconi. Tanto, cioè, voglio dire, molto meglio. Cioè, ci metto la firma per un Fini, considerando cosa fa la Meloni adesso. Voglio dire, se mi dicono firmi per far tornare a Fini, sì. No, ma che scherzi, è tutta un'altra storia. Voglio dire, per carità. E niente, poi. Altri tweet? No, vabbè, poi magari dopo vediamo se recuperiamo qualcosa. Che qualcosina, se andiamo a cercare Pillon, la troviamo, ma dopo. Vabbè, allora. Altro argomento. Passiamo a Francesco. Altro argomento. Io trovo. Ho due cose bellissime. Possiamo farle in due interventi diversi. Quindi dopo facciamo altro argomento. Posso 2. Parlare del mio amico acquisito di recente, che ogni tanto vi faccio vedere, che mi sta scrivendo anche adesso. Se volete. Oppure possiamo parlare dell'alterco che ha avuto in altri ambiti digitali, diciamo così. Dite, scegliete voi. È solo l'ordine dovete scegliere, perché tanti voglio riuscire. Ma parti dall'alterco, ci piace di più. Allora, visto che con dei colleghi, insieme anche forse c'è mezzo pure la bicocca, stiamo facendo un progetto, diciamo, per la settimana del Ceraviello. La settimana di praticamente dobbiamo fare abbiamo commissionato a fare tipo un mondo su WarChat, che chi non lo sapesse è un metaverso, cioè un social immersivo, praticamente ti metti là tipo come una volta era Second Life, però un po' più chi cazzo. Allora ho detto, comunque, avendo il mio Oculus, ho detto, ma ogni tanto prova a farci qualche giro dentro per vedere che cazzo si trova, che si fa. No, certe cose all'inizio ma che cazzo. E poi col tempo più ci passi, più capisci come funziona, più vedi che magari ci sono davvero dei mondi creati proprio davvero bellissimi. Tipo l'altra volta, parlo con te Puccio, c'era tipo il castello di Super Mario 64, perfetto, tutto, con tutte le aree, con tutti, cioè è identico, bellissimo. Più altri mondi, che cazzo. A un certo punto ho trovato pure tipo un mondo dove praticamente sono solo delle mura, che c'è sta tipo, poi tipo funicoli yamma yamma ya, tutta a palla, e ti puoi prendere degli avatar napoletani, tra cui tipo Goku blu col simbolo del Napoli. Però vabbè. Ce ne sono di queste cose. Ci stanno pure tutti gli avatar di, come cazzo si chiama, di South Park, di Breaking Bad. Infatti poi sono andato girando con l'avatar di Gus Fring in giro. E poi però ogni tanto si incontra anche della gente, spesso gente minorenne purtroppo. Allora entro in Dustbound, è una specie tipo di chalet natalizio, tutto addobbato a Natale, così a caso, giusto per entrarlo. Entra e c'è un Deadpool che cammina e dice: "Hey, you what the fuck? No, thanks. Oh, I'm sorry." Poi a un certo punto giro e vedo uno tipo che si cambiava da Ronnie 3-2, cioè a un certo punto esce che tipo Sonic, e dice: "Oh, Sonic." E sento sta voce di sto ragazzino: "You shut up. Dice, ma... E gli dico, oh, parlerò in italiano, gli dico: ma perché, che ti ho fatto? Zitto messicano di merda. E già capisce l'estrazione, diciamo, sociale, da che paese proviene, giustamente. Tipo Stati Uniti. Tipo Stati Uniti, che sarà proprio figlio infoiato di repubblicano, che proprio diceva proprio roba, tu sei gay, sta zitto, e mentre si cambiava avatar di volta in volta. Però a un certo punto non ci stavo, ma perché mi offende, che ti sto facendo? Io tu c'hai il pesce piccolo, ho detto, è vero, però è sempre più grossi te, preso per intero, io ho detto. Veramente noi siamo adattissimi ai social, infatti sì. A un certo punto devo salutare, si chiama OGM antisocial. Sì, ma ce l'ho la mia, c'avevo Laura a fianco, ho detto sì, ce l'ho la mia bitch, non parla con lei. E loro dice: ma che è sto bitch? Che tra l'altro Laura si stava divertendo perché stava vedendo il mirroring sulla televisione, che cazzo stavo combinando. E dice: ma che cazzo è questo? Sì, I your bitch, fammi parlare con la tua puttana. Cioè, tu fammi parlare perché la puttana è mamma, te l'ho detto. A un certo punto poi gli ho detto: ma tu, you shut up, you're a woman. Dice: ma che cazzo te fai, sei una donna, cioè magari. Poi a un certo punto tu, roba da 13 anni, e tra l'altro poi si stava cogliendo un capannello di gente che ci stava vedendo e stava ridendo, cioè sentiva gente che stava guardando e stava ridendo, mentre lui cambiava sempre avatar su avatar, mi ricordo. E a un certo punto poi inizia, io gli ho detto: ma tua mamma sai come l'ha fatto? Sì, ha fottuto mio padre. E beh, sì, tu, quello che tu credi tuo padre, io sono tuo padre. Gli hai tagliato una mano prima. Poi si vede che si inalbera, e ho detto: io spero che tu abbia gli amici nella vita reale. E si inalbera, quando si iniziava ad inalberare capivo che gli andava a toccare, cioè. Poi ha iniziato a dire pure, sempre quando parlava di penne: sì, il tuo penne sarà di 6 pollici, cioè, ma che cazzo sono sti pollici, solo vuoi americani in merda, parla di sti pollici, parla di centimetri. A un certo punto però è proprio impazzito, proprio, soprattutto quando gli ho detto il fatto da mamma, tipo si è messo e si era raccolto un sacco di gente intorno a lui. A un certo punto cazzo, lo devo registrare, purtroppo non mi è venuto in mente perché si possono registrare le cose con l'Oculus. È uscito fuori, ho detto che cambiava sempre avatar, è uscito fuori con un avatar che era tipo Paperino con un revolver in mano puntato, e dicevo: io ti ammazzo queste cose qua, ammazzo tutte. E mi si è scaricato l'Oculus, purtroppo. No, che peccato, oh, che no. Peccato, no. Hai creato un'aspettativa, un hype enorme, e poi si è scaricato tutto. Però la prossima volta registra, mi raccomando, insomma. Hai fatto sì log, soprattutto se dovessi incontrare Paperino. Purtroppo per fortuna di bambini se ne trovano spesso. Appunto, in giro appunto. Su WarraChat, quindi appunto, appunto. Prossima volta provvederò a bullizzare un altro bambino, ma solo se mi attaccano a me, perché questo no, ma certo, non è che lo devi andare a cercare. Sonic, you shut the fuck up! Ma che cazzo vuoi? Ma poi messicano del merda è bellissimo, comunque. Cosa questo? No, messicano del merda è fantastico. Tant'è che d'ora in poi noi ti appelleremo messicano del merda. Esatto. Va bene, ma adesso sapete che cosa facciamo? Di Salerno, voglio dire. Facciamo una cosa importante. Poteva dire cileno, perché ero sfrigo. Sì. Ah, vedete, sta zitti. Puccio! Quali sono le interrogazioni? Questo c'ha l'ego. No, era Puccio, i biscotti nel latte. Esatto. Puccio, i biscotti. Puccio, quali sono le grandi domande di questa settimana? Possibilmente. Perché mi hanno bannato? Quello è un... Io adesso lo scriverò sul cuore. Perché Puccio è stato bannato? No, mi hanno riabilitato. Ho appena risposto a una cazzata. Ma se io scrivo una cosa sul cuore, scusate, io faccio una domanda tecnica. Perché io cuore sono iscritto da un sacco di tempo. Leggo ogni tanto, ma non ho mai postato niente. Non so neanche come si fa. Ma se io ti taggo su Quora, cioè ti posso taggare? Sì, puoi. Ok, allora. Cioè devi rispettare una serie di minchia, però sì, puoi. Che devi fare? Non è come Facebook che fa i chioccio, funziona in un'altra maniera, però puoi. Ok, poi me lo spieghi così. A meno che io non ti abbia bloccato, roba simile. Vabbè, certo, sì, vabbè, quello me lo immagino, insomma. Oh, allora, la prima domanda che mi tanto stanno, se ti sentite dei bambini che vengono serviziali, non è colpa nostra. È sempre esatto. Puccio che produce adenocromo, vi ricordo, c'ha una cantinetta. Vabbè. Stavo dicendo, ragazzi, la prima domanda che mi è saltata agli occhi questa settimana, a cui non ho voluto rispondere perché ho detto metti che è una cosa che non so io, quindi, perché Simone dice sempre c'è qualcosa che non sai? Sì, Simone dice che io di cinema non capisco un cazzo, è la domanda. Non è che lo dico io, cioè è oggettivo, io me ne rendo conto assolutamente. Stavo dicendo, i miei bambini festeggiano non so che cosa. Allora, stasera è finito, insomma. Decisamente. La domanda principale è: qual è la differenza tra i film di Edgar Allan Poe e quelli di Hitchcock? Io qua mi sono fermato perché Edgar Allan Poe ha fatto i film. Come? Ma che non lo sai? Ero lì che dicevo: ci deve essere qualcosa che non so in tutto questo. Sono andato a controllare perché. Immaginate un cretino che va su Google a scrivere quali film ha diretto Edgar Allan Poe. Quel cretino sono io. No, glielo potevi chiedere a ChatGPT che. No, gli avrebbe risposto tipo Vacanze di Natale 2000, perché ChatGPT tende a dice cose a caso. Fa come cazzo gli pare, quindi sì. Adesso glielo vado a chiedere sì, io. Sì, ma prima o poi dominerà il mondo, quindi. Dicendo cazzate, che è quello che fanno i politici italiani. Per questo che interagisco spesso con gentilezza, cioè vado lì proprio sì, a dirgli: se dovesse incazzare, sappi che io sono amico tuo, glielo scrivo spesso questa cosa. Quindi. Ma sai che esiste una teoria di intelligenza artificiale che credo si chiami teoria del drago di Komodo, una roba sì. Cioè in pratica se parti dal presupposto che le intelligenze artificiali impazziranno è bene comportarsi bene con loro da subito, quindi se avete tipo Google Home a casa, Alexa, voi dite sempre grazie quando vi dà una risposta, cioè dimostratevi amichevoli perché così un giorno magari ci risparmieranno. Ma tanto loro ti ascoltano quando tu non te ne rendi conto perché non ci pensi e sanno la verità comunque. Io vi vorrei ricordare che mo Google l'ha tolto, ma per un sacco di tempo se tu spegnevi il microfono e dicevi vabbè mo scatterà tutto in casa e dicevi ok Google, il Google Home ti rispondeva hai il microfono disattivato. Sì sì, me lo ricordo. E allora perché mi stai rispondendo? Sì sì, vedi. Disattivare il microfono. Senti? Interruttore sul retro di Netflix. Vedi? Google Home che risponde. Vabbè. Stavo dicendo, l'altra domanda che francamente mi è sembrata meritevole di attenzione è abbastanza così inquietante. Com'è la casa di Stephen King? A parte le risposte del tipo ma te che cazzo te ne frega? C'è gente che ha cominciato a rispondere del tipo no ma è come la casa di tutti noi normali, cioè la casa di Stephen King ha tante cellette per i Ghostwriter. Esatto. Ma tante. No, vabbè, ma adesso usa ChatGPT pure lui. Non me lo leva nessuno sta cosa. Comunque il fatto che lui abbia i Ghostwriter, secondo me è tendenzialmente una stronzata, cioè. Ma chi? Stephen King. Vabbè, secondo allora lui per la quantità, revisori. Lui c'è stato un periodo in cui lui cagava libri a spruzzo. Secondo me lì l'anno pure mo. No, nel senso, secondo me lì dai, non ce la puoi fare. Qualcuno che dava quantomeno lo aiutava nella struttura. Poi dopo... Bangla. Comunque il nostro amico ChatGPT ci dice che in realtà Edgar Allan Poe non ha mai girato film, in quanto è vissuto nel XIX secolo, ben prima dell'invenzione del cinema. Sì, Poe è famoso soprattutto come scrittore di racconti di genere horror. E poi come tossicodipendente. Ma quelli tutti, che vuol dire? Allora pure Baudelaire, tu dici, Baudelaire non è famoso per essere... Pure Boderek. Boderek. Che cazzo di lato vuoi? A proposito, ma c'è stato un coccodrillo dopo, dobbiamo dire, questa... Ma c'è stato più di uno. Aspetta, però... Perché Puccio apre le digressioni? Io non ci ho capito un cazzo. Qual era il discorso? La puntata di oggi sarà tutta così. Non vi fa capire cazzo, manco gli ascoltatori. Cioè, io il discorso di partenza qual era? Perché capito? Cioè, nel senso. Da Edgar Allan Poe che faceva i film. Okay, beh. Sì, la seconda domanda era: qualcuno di voi sa descrivermi la casa di Stephen King? Quindi c'è gente che ha dato delle risposte. È venuto fuori Walter che diceva: c'ha tante cellette per i ghostwriter. Esatto. Da lì siamo finiti a GPT. Ok, va. Vabbè, okay. Quindi vedi, tutto sommato, proprio del tutto rincoglionito. Vabbè, cioè, quindi stavolta le domande tipo: ho trovato mia figlia con un limone nel cosa che devo culo, fare in questo caso? Cioè, non... Perché a me mi arrivano sempre solo quelle. Io non lo so, ma a me quelle che poi tu mi mandi. A meno che non me le scarti a priori, ma sono bellissime. No, non mi arrivano. Cioè, a me le cose più terribili che arrivano sono tipo: ma perché tu, perché Bill Gates sta investendo senza sosta. Ma perché tu vai a cercare le cose tecniche, capito? Invece a me, dato che io non cerco niente di specifico, lui mi dà le cose che so più. Perché voi non andate, come fa invece Simone, a leggere la famosa rubrica di cioè non raccontare a nessuno quello che non vorresti raccontare al tuo parente medico. Sì, no, io non esiste leggo. Ancora sa. No, ragazzi, l'altro giorno passando davanti all'edicolo ho visto che cioè esce ancora, non so che parlano, chi se lo compra, è ma esce ancora, probabilmente è della menopausa. Ma i ragazzini ci stanno ancora oggi, ho capito, ma c'hanno i cellulari prima, certo, non ci puoi attaccare adesivi sul, però. Vabbè, però tu devi considerare che quello là che i produttori della rivista prendono comunque i soldi dallo Stato per fare, quindi insomma, capisci. Facciamo io anche volevo chiedere a mia figlia: tu compreresti mai un giornale in edicola e vedere che risponde? Chiediglielo a cuora. Fai questa domanda: le vostre figlie comprerebbero un giornale in edicola? Lo chiedo a ChatGPT. I gatti comprerebbero Whiskas. Vabbè, Marco, senti, ma invece non so se ti sei organizzato. Io non so, questo sabato devo portare a cena fuori un po' d'amici. C'è qualche cosa da suggerirmi? Non mi ci sono impegnato più di tanto, ti devo dire la verità. Però c'ho delle notizie allarmanti, volendo. Allarme! No, scusa, aspetta, scusa. Infatti aspetta la sigla. Che cazzo, cioè, pure tu, te pia, te ne vai. Bello, sì. Marco Gualdi. Questo è un quiz anni 80, ragazzi. Non finisce più, guarda. Gualdi. Notizie allarmanti. Questo viene da un sito molto importante. Che si chiama haircare.it. Già il titolo è per te interessante. Haircare, ah cazzo. Netflix, il colosso dello streaming, dice addio a questa funzione amatissima. Ora basta. Non sapevo mai qual è. Poi c'è da passionetecnologica.it, altro sito blasonato. Concreti rischi per i minori. Allerta smartphone, applicazione bannata a tutela dei più piccoli. Panico tra i genitori. È che è replica lì. Replica quella di cui ha parlato anche Walter Vannini seriamente sull'ultima puntata di Data Nightmare. Sì. Esatto, può darsi, non so perché non ho cliccato. Ah, anche perché tu neanche ascolti i podcast. Quindi. No, quello vabbè, quello no. Non ho tempo di ascoltare neanche me stesso. Guarda. Allora. Che cazzo stai a dire? Ma che c'hai da fare? Qui raccontaci, il mondo. Raccontaci la tua giornata. Tu esci alle 9:10 da casa. E hai di 9 stai in ufficio. Okay. Quindi già ci hai avuto tutto un lasso di tempo dove noi abbiamo fatto già milioni di cose. 5 minuti, che caso faccio? 5 minuti. Ah, già, perché tu ti svegli 5 minuti prima? No, mi sveglio un'ora prima. Simone ha già portato il cane a pisciare due volte. Sì, esatto. Io ho fatto live, ho fatto di tutto. Bravo, io invece dormivo e quindi non posso sentire le cose, giustamente. poi c'è cellulari.it, quello che tu ami proprio, il tuo, no, il tuo compagno di giochi, realtà, anche, certo. Cioè per lui che si presenta, mi bussa, chi è? So cellulari.it, e sappi che è stato scoperto il motivo del crollo di Tim, non potete immaginare di cosa si tratta. Ah, non l'ho immaginato, non l'ho immaginato, cioè, e non solo non lo immaginiamo, ma non lo sapremo proprio, assolutamente. Invece Today, okay, vabbè, Today che però insomma ha la sua dignità, la sua però dignità, ogni tanto però si perde nel clickbait come ormai fanno tutti. Diesel e benzina, svolta la pompa, cambia di nuovo tutto. Così svolta la pompa sembra un gioco di società tipo Faccia di Pietra. E poi basta, queste sono le cose. In realtà sono arrivate pochissime cose allarmistiche in questa settimana. Ma forse perché mi rimetti il jingle di prima, perché mi ha fatto in mente un'impostazione impossibile. Perché non ti ricordi quale tasto era? No, il tasto mo ricordo. Ma l'ha già spostato. Ma metti un altro. No, perché quello c'aveva proprio l'impostazione. Ma quello del quiz, dici? Sì, c'aveva proprio l'impostazione del quiz. Ho detto, vabbè, ma non fa niente, tanto era una stronzata. Poi dopo ciò, se volete poi dopo ve lo dico, mi è arrivata una mail, una di quelle che non arrivavano da te. Ah no, adesso ritorniamo. Enlarge your penis now. No, quelle tristi. E allora, il nostro nuovo concorrente Marco Gualdi da Roma. Sì, eccomi. Allora, sei pronto? Per natura e scienza, da 500.000 lire ci deve dire quanti capelli ha in testa Puccio Console. Nessuno, non sono capelli veri. Sono fibre metalliche. Bisogna notaio, bisogna sentire il notaio. Notaio di Reggio Emilia? Che poi occulto notaio, com'era? Occulto notaio. Allora, che cosa la risposta è giusta? È giustamente sbagliato. È giustamente questa sbagliato. È la cosa che volevamo sentire. Ma io tornerei a questo punto. Scusate, sbagliato proprio. Comunque, no, perché andando a caso, sai le cose. Però cioè, torniamo alla cipe. No, perché di Davide Gatto. C'è il balordo qui di fuori, magari ci voleva dire qualcosa. Che si stava collegando con la radio e vabbè, cipe. Ah, però c'è l'ultima ora, se volete. Ah, no, vai con l'ultima ora. Una notizia allarmante della stampa. Meteorite di 4,5 miliardi di anni precipita a 300 km orari su un balcone a Matera. Proprio, cioè, realistica questa. Cioè, atterrato poi, cioè, nel senso non è che sì. No, spaccato. In realtà c'è questa notizia, però non è come è stata raccontata qui. Cioè, non è che un meteorite è caduto a 300 km orari su un balcone, perché non ci sarebbe più il balcone, la casa, credo, non ci sarebbe Matera. Proprio. Matera non lo so, però insomma il palazzo non credo. No, in realtà è esploso in volo questo. Ma perché, scusa, i sassi di Matera non sono pezzi di asteroide? E infatti è esploso in volo ed sono cascati questi sassi su Matera, e quindi sono diventati Matera. Vabbè, qualche volta ogni tanto ne casca uno, cioè sì. Ma qui sono diventati Matera, che non riescono a essere totalmente disintegrati. Tipo in Russia 2 o 3 anni fa ha fatto un boato bello grosso, abbastanza grande. Ma ragazzi, comunque da pugliese potrei dirvi che se anche si fosse battuto un asteroide su Matera potremmo non essercene accorti. Quindi, vabbè, c'è questa leggerissima rivalità lì al confine. Che diamine, che rivalità assolutamente. Più che altro perché è fatta tutta dei sassi, e quindi un sasso più un sasso meno non se ne accorge nessuno. Questo tu volevi dire? No, dico il livello di vita sociale. No, dai, io a Matera ci sono stato diverso tempo. Accorgerti per 6-7 mesi. Non è vero, non è vero. È una città vivace e carina. Non è vero, non dico cose brutte. Gente che si affaccia in mutande mentre parla Conte. Insomma, succedono queste cose a Matera. No, passa alla storia. Quello pure a Roma succedeva, penso. Insomma, quindi però alla fine. Vabbè, io vorrei tornare a Twitter comunque. Twitter. Va bene. Facciamo così, guarda, però la facciamo proprio in diretta. Io li sto a mettere a caso, capito? Quindi non lo so, non li posso preascoltare. No. Vediamo un po' cosa. Oddio, panico, perché invece di andare su Twitter sono andato su Telegram distrattamente, ho cercato Pillon, è uscito Simone Pillon Telegram Channel, regà. Dai, cioè inquietante. Allora, dicevamo, andiamo glielo dia a Francesco che si iscrive subito. No, è quello che io mi spero lo stia facendo. Allora, vediamo un po' cosa possiamo trovare dell'ex senatore padre di Pillon, che adesso ormai nella biografia di Twitter si firma semplicemente marito, padre di tre figli, avvocato cassazionisti, già presidente Forum Famiglie Umbria, ecco, fondatore del Family Day, ex senatore della Lega, perché ormai politicamente non ha poltrone, quindi. No, ma io però, io per esempio, sai che è una curiosità mia personale, cioè se uno conoscesse i figli dei Villon, no? Cioè prova a intervistare, cioè. Senti, una è andata via di casa. Ma per forza. Poi tempo fa. Ma secondo me, guarda, non per dissidi, proprio per vergogna. Sì. No, proprio per dissidi, perché lei voleva separarsi di, vabbè, una roba complicata. Che poi, tra l'altro, se ho capito bene, non sono biologici ma adottivi, una roba del genere. Manco il cazzo, complicato. Ma no, che tristezza, dai. Attenzione agli avvocati. Attenzione. Allora, però, allora, ragazzi, io vi, questa ve la leggo perché è carina. Il senato, l'ex senatore Villon scrive questo, questo tweet che inizia con questo ballon rosso, come quando noi mettiamo i brani live, no? Ballon rosso. Hashtag i comunisti sono meravigliosi. Cambiano nome, partito, ma quando perdono le elezioni reagiscono tutti allo stesso modo. La colpa è del popolo che non li capisce, non li apprezza, non li sostiene, perché loro non sbagliano mai. Vi prego, non cambiate mai. Hashtag elezioni regionali 2023. Il riferimento al comunista che faceva è Calenda. Pensate, Calenda. Vabbè, ma che ne Calenda. No, no, lo sa, lo sa. Cioè, no, ma che ne sa, dai, comunista. Coraccio, dai. Cioè, Calenda è comunista, dai, cioè. Ma si vede. Rispetto, cioè, se il punto di vista, se il termine di paragone è Pillon, Calenda è comunista, sì, cioè, siamo a sto livello qua, però insomma. Calenda è Che Guevara, rispetto. Capito. Ragazzi, cioè. Vabbè, così. Vabbè, allora andiamo da Francesco, va. Francesco, mi non so che è successo. Così, questo è il suono di un computer. Vi ripeto, se cominciate a sentire la sigla di Tecnopils va tutto bene. State sedete. Vabbè, basta. I vostri posti. Sono finiti. Rimetto quello là, il primo, quello con l'eco che ci piaceva tanto. Si può mettere la sigla di Security Archi, di Security Corner. Vai Francesco, facci sognare. È andato proprio Francesco. Francesco è andato. Mi sembra coerente. Insomma. Francesco c'aveva il soufflé in forno. Allora, gli piace tanto con lui. Credo che gli abbia citofonato al balordo. Balordo se te citofona. No, perché è scomparsa qui. Balordo. Io non so, ma perché quella bambina è scappata, quella ragazza è scappata. Se mette a scappare. Fate la domanda, la risposta che è, però per me. Balordo. Ce la porteremo fino a fine stagione. Momenti di grande confusione da adesso in poi. Abbiamo ordinato il cartonato perché lo vogliamo un po' avere più vicino. Perché non so se l'avete visto, sta cosa sta girando da settimane un po' su tutti i social, perché qualcuno ha messo in vendita e probabilmente qualcuno sta comprando il cartonato a grandezza naturale di Albano su Amazon. No, ma ce ne sono diversi. E quanto costa? Quanto costa? Euro, una cinquantina d'euro. No, troppo. Troppo. Se costava meno lo prendevamo. Aspetta un attimo. Vabbè, 50, diciamo, così e meno. Poi dopo gli facciamo il trattamento. Scusa, no. Poi gli facciamo il trattamento Gualdi, cioè quello dei baffi e cose, no? Visto? I ceppi di cazzo. No, beh, per 50 euro voglio farlo all'originale. No, 50 euro sono troppe. Cioè, vabbè, che il costo da stampa, quello che ti pare, ma 50 euro. Cioè, no, infatti, vabbè. Se dovesse, tipo, che ne so, al prossimo Black Friday, dovesse uscire a 15 euro, 5 euro per uno, si può pure fare, insomma, dai. Ma perché proprio Albano? Meglio Boderek. Ma non credo ci sia il cartone del Boderek come lo vorremmo noi. No, a parte il fatto che penso che ci saranno sti servizi anche Pixar Printing, se stampa in cartonato quello che te pare, gli dai la foto, te la salgo. Ah, beh, certo. Però, certo. Vabbè, lì però te viene a costare un po' di più. Beh, soprattutto perché insomma, c'è spazio da riempire. In 3D però? Anche. Quindi dite che se cerco quello di Linda Carter vestita da Wonder Woman lo trovo? Ma lì sono 2 metri di cartonato, quello costa una vita proprio. Lascia stare. Figlio, quando su 74 ci arrivo. Sto ancora in scope per questo. Guarda, tipo te lo cerco di, io su Amazon. Beh, Linda Carter credo che fosse abbondantemente sopra il 1,80 m. Che sia, non fosse, insomma, perché. A proposito, ragazzi, è ancora viva, sta benissimo. Esatto. Vogliamo parlare di coccodrilli? Perché io uno ce l'ho e è abbastanza triste. Aspetta un attimo. Stiamo preparando l'asset per i coccodrilli. Che vi giuro, mi è venuto un embolo quando ho letto certe cose. Se il coccodrillo che penso io. Intanto in chat io ho messo guardate com'eri, guardate come sei, le pari tu sia, perché poi insomma, sai, ci sono delle cose che muoiono dentro a volte. E questo è dedicato a Sbano. che dice, sai, voglio rimanere col ricordo. Mamma mia. Questo quando ti dicono voglio ricordarmi di te come. Vabbè, ma c'è chi è invecchiato peggio, dai. No, vabbè, sì, tutto sommato, dai. Prego, prego. Stamattina, come ho scritto un piccolo gruppo di amici, chat di amici appassionati di anime, eccetera. Regà, noi stamattina se siamo svegliati, leggi Matsumoto? No. Ah, è morto il papà di Capitan Harlock. Perché anche Capitan Harlock c'era un po'. Abbiamo la madre, sì, la madre, certo, la madre, appunto, dico, chissà se era coglione come lui, però cioè, no, no, Capitan Harlock non era un coglione, no, era almeno coglione, era almeno coglione, prima che lascia dei coglioni, esatto. Però lui era buono, era buono, era un cattivo buono, un pirata tutto nero che per casa ha solo il cielo, ha cambiato in astronave il suo velier, ricordati sempre questa frase, che quelli astronave erano, ecco, quelli erano sempre i cavalieri del re che sono uscivano con queste frasi così auliche, auliche, Aulin, anche Aulin, vabbè, insomma, è morto Puccio, ma quali sono, vabbè, però c'aveva una certa 85 anni, sì, io ci vorrei arrivare a 85 anni, io non lo so, ci penso, no, vabbè, cioè, se sto in piedi, vabbè, certo, okay, se invece ti devo sapere, esatto. Puccio, ma tu dicevi, era questo ovviamente il coccodrillo che pensavi, sì, no? E sì, quali sono, sì, le cose che hai letto, che... No, c'è un a parte roba di citazioni di Giorgia Meloni, 9 aprile, Capitan Harlock, queste robe così, che paragona la lotta del suo partito a quella di Harlock contro un mondo apatico, eccetera, cioè, eccetera. Quindi mi vuoi dire che loro non conoscono solo Tolkien ma pure Matsumoto, a parte, vabbè, tutta, sì, quella storia di Yamato Video, che spesso e volentieri si è associata a fenomeni culturali, no, di estrema destra. Breaking news, perché Bo Derek a 63 anni il documentario autobiografico Io Donna, lo voglio vedere subito. No, aspetta, Bo Derek adesso a 63 anni? Vabbè, qui dice 63 anni. Ah, no, perché mi sembra un po' cioè, gliene darei almeno una decina in più adesso. Qui dice, yeah, adesso la notizia, ah, okay, nello, no, specifico, che leggo, okay, è Bo Derek a 63 anni. A 63 anni. Ah, mazza, vabbè, allora, ok. Vabbè. 63, vabbè, quindi 3 anni fa, il documentario autobiografico Io Donna. Io Donna. Noi lo vogliamo vedere assolutamente questo. Perché Bo Derek ha fatto un documentario autobiografico Io Donna, a Mandalir, no. Non lo so, adesso mi documento. Potrebbe. Ma lì c'era tutta costruita un'allusione metaforica, va bene, un'allegoria. Abbiamo capito. Vabbè, comunque, insomma, il poro Matsumoto. Dovremmo chiedere a Salvador Dalì, ma esatto. Ma in realtà, ma pure a coso, anche secondo me, pure il regista, dai, quello che non ha fatto Jodorowsky. Jodorowsky, pure lui. Jodorowsky, qualcosetta. Jodorowsky. Secondo me Jodorowsky dovrebbe sapere da Mandalir. Vabbè, gli propose il ruolo di Irulan. Lei fece finta di incazzarsi tantissimo perché aveva chiesto a Dalì di fare. Eh sì, ma perché gli doveva piazzare Dalì, esatto. Esatto. E lei disse: io mi rifiuto di fare il ruolo della figlia del mio amante. Esatto, sì, sì. Che poi è una cosa che ha raccontato lei, quindi. Sì, sì, no, perché Dalì non aveva letto Dune, ma lei sì, quindi si è rigirata il personaggio come voleva. Vabbè. Sai che non ci sono foto recenti di Mandalir, eh? Ma sta sempre, no, spesso sta in televisione, comunque, vabbè. Ma invece mi sa che non era nemmeno l'unico coccodrillo questa settimana, però poi non me li sono scritti, non me li sono appuntati. Guardi, c'aveva un coccodrillo. No, però non mi ricordo l'attrice quella morta famosa. Aspetta, di un milione di anni fa. Fermo. No, poi oggi, ragazzi, dobbiamo anche ricordare il simbol del film Un milione di anni fa. Purtroppo un'attrice morta che non si ricorda per noi. No, però era celebre, molto celebre. Era celebro. Sex symbol. Era un celebro sex symbol. Pizzi, però tu, io non so chi è stato, ma qualcuno ha cancellato cosa? Il pin sul nostro chat. Io perché dovevo cancellare? Morticelebri.com. E non riesco più a trovarlo. Cioè, scusa, perché mi devo prendere una responsabilità di una cosa? Io a malapena vi leggo. Certe volte, cioè, perché scrivete, vabbè, comunque. No, adesso si sono trovato un milione di anni fa. Vabbè, è morta questa tizia, dai. Dobbiamo trovarla. Morta, vabbè, dai. Ma mentre io Francesco è tornato così, giusto? Io mentre che lui cerca questo De Cuius. Ah, Rachel Welch. Ah, cavolo, è vero, Rachel Welch. Minchia. Caspita, minchia. È vero. Quanti anni ci aveva? un milione un milione di anni fa, o forse due, ma questo un milione di anni fa, no, aveva esattamente del beh, ma pure lei un'ottantina credo li avesse, sì sì, lei era celtica, cioè insomma tra l'altro infatti era Luca 40. S ce l'ha detto, ce l'aveva detto lui, era del 40 insomma, quindi ma invece Francesco vogliamo parlare, non c'è Francesco, no, ah no Francesco Puccio perché Puccio. L'avevi segnalato tu da Facebook di questo gruppo che si chiama Comunità Ucraina Marche? Madonna, sì. Com'è poi il CUM? Il CUM. Il CUM, esatto. Allora, pure una goscia al simbolo, io non vorrei insistere. Sì, qualcuno si è domandato se questo fosse satira, tu come sa Smano, giusto? Sì, sì, no, no, ero io stesso in realtà, perché mi chiedevo se era una roba tipo Bugliano che non avevo capito io, che può essere benissimo, essendo io un noto cretino. Cioè tu avevi preso seriamente il comune di Bugliano, grande? Sì, no, sì, no, no, il comune di Bugliano no, però capisco che queste cose possano essere. E avevo preso sul serio Martina Dell'Ombra all'inizio, ah, cioè, okay. Non avevo capito che stesse scherzando. Questo per torno a ripetere. Che poi c'ha pure lei, lei c'ha il padre balordo. No, è balordo. Sembrerebbe vero questa cosa, ragazzi. Cioè, no, vi prego. Il CUM, quindi. Anza, vabbè, Ucraina, ragazzi. Comunità Marche, premi, associazioni per raccolta beni. Cioè, se sono falsi, l'hanno fatta benissimo. Ascolta, se fosse stata falsa, CUM sarebbe stato Comunità Ucraina Molise. Ma non esiste. Appunto. Comunque, le comunità, questa è dall'ANSA, la comunità ucraina delle Marche, CUM, ringrazia la Protezione Civile per far ridere di Castel Raimondo e tutti i benefattori locali, consegnando un attestato di ringraziamento. Per la gara di Bukkake. Sì, esatto. Questa è dall'ANSA. Io adesso non so se l'hanno presi per il culo. Per il CUM, sì. Per il CUM, però, cioè, ragazzi, questa è fresca fresca di oggi. Vabbè. E intanto, sotto gli occhi, mi si è aggiornato con una nuova veste, bing. Così. Perché mo hanno fatto la nuova versione con, che integra anche l'intelligenza chat artificiale. Che, sì. Dai, è grande. Quindi adesso posso scrivere: mi trovi quella cosa dove. Dove sono butane? Le butane. Dove sono butane? E sono qui le butane. Esatto. No. Cioè, attenzione. Io devo dire, però io devo dire la verità. Cioè, la cosa che ho trovato utile in chat GPT, mo, al di là di tutto quanto, è che quando cerchi una cosa, tu gliela spieghi. E, insomma, qualche volta ti dice pure insomma le cose che cerchi. Poi, come ci ha spiegato Walter Vannini, tutta questa ingenuità all'americana implicherebbe che ci fosse una risposta univoca a ogni domanda. Insomma, quello è il problema. No, però se io cerco una cosa specifica, cioè nel senso, a volte con i motori di ricerca tradizionali è più complicato. Questo bisogna dire, insomma, no. C'è anche un titolo armante: Ombre nere sulla CUM Marche. Che il nero di WhatsApp. Manco, potrebbe essere un film questo che sta su YouTube. Manco l'hanno fatto, già hanno sgamato i fascisti. Insomma, e vabbè, ma chi avrebbe mai detto? Insomma, tutto sommato. Ma no, non era il nero di WhatsApp. Io pensavo il nero di qualche. Nero di seppia, sì. No. Black Cock, Black Mamba. Black Mamba, esatto. Bah. Vabbè, ragazzi, che vedevo di. Ah, tra l'altro, oggi no, perché non si sono ancora allineati i pianeti, ma presumibilmente possiamo dire approssimativamente che dalla prossima puntata torneremo a parlare di quell'argomento lì. Ah, cazzo, no. Perché no? No, perché noi lo vedremo dopo. Scusa, a me Bing mi sta dicendo: sto organizzando un viaggio per il mio anniversario. Quali sono i posti dove posso andare in a Italia? Butane? Si fa le domande da solo. Si fa le domande da solo, scusa. In che senso le domande da solo? No, c'è qui la pubblicità che dice questa scritta: cioè, sto organizzando un viaggio per il mio anniversario. Dove posso andare? Ah, ok. Cioè, fate una domanda. È un po' come Alexa, no? Che sull'applicazione Alexa ti dice quello che tu gli puoi dire, no? La stessa cosa. Insomma. Vabbè. Chiedilo. Ma soprattutto, dove posso lasciare mia moglie nel frattempo? Esatto. Sull'autostrada di solito. Di solito, dice, sì. All'autogrill. E dice, per l'anniversario dei 25 anni di matrimonio ho portato mia moglie ai Caraibi. Ammazza, che bravo, pensa un po', allora per 50 dove la porterai? No, per 50 vado a riprendere. Basta. Vabbè. Faceva ride. La battuta. Vabbè, guardi, ma ce l'hai le recensioni? No, gliel'ho chiesto prima, non ce l'hai. Che schifo, detto, guardi, devo ma tu, portare, cioè, ma c'è una settimana di tempo, non fai un cazzo nella vita? Cioè, io potevi... sabato devo portare degli amici fuori, devo fare bella figura, esatto, facevo riferimento proprio al devi, sapere. Ma noi in OGM ne abbiamo parlato dell'hot pot, sì, penso, vero? Sì, sì, è possibile. Sì, ok. Sì, sì. Ok, niente, vabbè. C'ho cazzo, Pizzo. Ecco, senti, vabbè, che sbadiglia. Vabbè, sapete che c'hai. Allora, fatto? Se, no, Puccio, se non c'hai niente, noi se ne andiamo. Pure Puccio. Pure Puccio. No, vabbè, se c'hai qualche. Comunque, intanto ringraziamo Luca che prima ci ascoltava, ci dava delle informazioni tecniche. Sì. Per esempio, ci diceva Linda Carter 1,75 m. Avrei detto che fosse più alta. Vabbè, ma perché d'altra parte. Tacchi. Ma d'altra parte non faccio testo. Poi dice, ok, ci ha ricordato di Rachel Welch, quindi ci ha aiutato, anche se nel frattempo non avevamo l'occhio sulla chat. Quindi grazie comunque, Luca. E, come per esempio, grazie anche poi, anche, leggevo anche qui di Giordano che interveniva sulla questione di un meteorite, ma non so se era in ascolto, quindi insomma per dare giustizia ai nostri ascoltatori indefessi, che io non so chi glielo fa fare, però insomma. No, questa è la domanda delle domande alla fine, perché alla fine chi ve lo fa fare, insomma, lo sapete, no? Yeah! Ragazzi, io direi che Francesco oramai non torna più. Puccio non c'ha. Francesco più... è stato colpito da un meteorite a Matera. Esatto, di quello di Matera, di rimbalzo. È che Albalordo quando si incazza mena. Secondo me Albalordo sta a cercare, ha trovato prima. No, lui. Io non vorrei che adesso quando passa Albalordo, non vorrei che Francesco fa la stessa fine dei Lenia Carrisi. Ti ho detto io che ha fatto bene, perché secondo me c'è un motivo. Perché a me lui non mi è mai piaciuto. Non ti è mai piaciuto. No. Comunque, detto questo, Gualdi non c'ha le recensioni, Puccio non c'ha niente, Francesco se n'è andato, io meno che mai. Ciao! Quindi vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana, ricordandovi che domani mattina alle 8 c'è il quarto d'ora di Radio Anziano e poi tutto il resto della programmazione, e martedì, mercoledì e giovedì alle ore 20 Walter Sbano con le orazioni della sera. Di che parliamo questa settimana? Qualcosa per farci incazzare la troveremo. Sempre qualcosa ci deve da essere. E poi non abbiamo ancora bene in programma niente, tranne io venerdì che faccio alle 7 del mattino la mia solita il grande reset. Il tema che vorrebbe anche coinvolgere tutti quanti è relativo alle regole della convivenza, diciamo, della civile convivenza, quindi che sia il condominio, che siano i coinquilini, che siano un ufficio, che sia le regole della strada, tutti gli esempi che avete trovato dove la gente non solo non conosce le regole base della convivenza, ma addirittura le piega a seconda delle proprie esigenze o del proprio egoismo. Se avete degli esempi, insomma, mandatemi audio, così insomma mi aiutate a fare questa puntata. Non ce l'avete degli esempi, anche state a casa. Infatti, arrivederci e grazie. Quindi saluto Walter Sbano, ciao, Marco Gualdi, ciao, Puccio Carmine Console, ciao, Francesco Di Muro, ciao. Da me Simone Pizzi è tutto, e ci vediamo lunedì prossimo.